Siria, Assad e gli affari di famiglia. Siria, l'Iran, la Russia e le relazioni pericolose. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. There is a rift between the president's cousin Rami Makhlouf and the Syrian government, and it is very public. Mr. Putin will never accept the defeat of Assad in this region. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. 16.08 in questo esatto istante, una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano. La puntata è nuova, ma la squadra è sempre quella: Antonio Tali, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni. Oggi in assistenza Claudia Schiattone, in regia ritroviamo Carmelo Lauricella. 349-238-6666 il numero per SMS e WhatsApp per domande e commenti sul tema di quest'oggi. Il tema che vi proponiamo qui è Nessun Luogo Lontano. Il campo di battaglia più duro per Assad è ovviamente casa sua, la sua Siria, quel paese che aveva quasi perso e fino a qualche anno fa si contava quasi una clessidra girata che sgranava gli ultimi granelli, si contava il tempo restante per il regime siriano. Poi l'intervento russo, ma anche quello iraniano, hanno messo dei puntelli a Damasco. Ma con un Idlib che ancora resiste, forse la battaglia più feroce adesso si sta combattendo a casa sua, e quando dico casa sua intendo proprio le stanze della famiglia. Infatti ormai a ferri corti, parlo di Bashar al-Assad, con Rami Makhlouf, cugino, potente uomo d'affari, proprietario fra l'altro di Siratel, il colosso telefonico siriano. Beh, sostanzialmente Bashar al-Assad sta cercando di congelare e requisire asset plurimilionari del cugino, con varie accuse, occultamento di fondi, corruzione, eccetera. Perché? Beh, è semplicemente perché Bashar al-Assad in questo momento è a corto di soldi. Questo è il tema di quest'oggi, ma adesso andiamo a sfogliare i dossier. Il primo ci porta in Burundi. Avevamo dedicato una puntata, una parte di una puntata di Nessun Luogo Lontano a queste importanti elezioni presidenziali, specificando due aspetti. Il primo, che il Burundi, un piccolo paese nella zona dei Grandi Laghi, è, a dispetto delle sue dimensioni geografiche, importantissimo, perché è la vera cartina tornasole, un termometro molto molto preciso delle relazioni nella zona dei Grandi Laghi, che coinvolgono quindi Uganda, Repubblica Democratica del Congo e Ruanda. E chi anche non conosce molto bene la storia africana ricorderà, tra le tante tragedie della storia, il genocidio ruandese. Anche in Burundi la dinamica etnica è forte, ma si è sopita ultimamente. È molto più forte e vivida invece quella strettamente politica. Il presidente uscente Pierre Nkurunziza non si è presentato. Dopo aver guidato il paese per 15 anni con derive autocratiche e dittatoriali, ha lasciato il campo, si fa per dire, in contestatissime elezioni a Evariste Ndayishimiye, stesso suo partito, un generale in pensione, che ha suggellato quella che è una delle nuove dinamiche del Burundi. Non è più contrasto Hutu-Tutsi, ma sostanzialmente partito di governo e opposizione che viene annichilita molto spesso anche con arresti arbitrari. Ricordiamo peraltro, si è votato lo scorso 20 maggio, ma con i social network che erano stati totalmente bloccati dal regime proprio per paura di manifestazioni e proteste. E poi in Libia, perché negli ultimi due giorni la Guardia Costiera di Tripoli ha fermato 400 migranti che stavano cercando di attraversare il Mediterraneo. Ne ha dato notizia l'OIM, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, da qualche anno agenzia dell'ONU, che è costretta ormai a lavorare dalla Tunisia, perché complice il conflitto e il Covid-19 non è più possibile seguire dal terreno quelle che sono le varie dinamiche. Tutti i migranti sono stati riportati in centri di detenzione a Tripoli e, dicevo, Covid-19 che va a impattare anche sul lavoro delle varie agenzie, compresa l'attività di rimpatrio che col contagocce, bisogna dirlo, però in maniera sostanziale viene portata avanti da parecchi mesi, voli rimpatrio, dicevo, verso paesi come il Niger. Ecco, anche quelli sono stati bloccati. E proprio mentre vi parlo, in questi minuti, a proposito di Libia, sul sito di AFRICOM, che è il comando delle operazioni militari in Africa degli Stati Uniti, ha affermato che hanno prove che la Russia abbia dispiegato in Libia aerei da combattimento per sostenere, dare un supporto aereo ai mercenari della Wagner. Ne abbiamo parlato tante volte, da ultimo, se non erro, proprio ieri, sulla presunta presenza di 8 velivoli, tra cui 2 Sukhoi e 6 MiG, che dovrebbero essere ormai in un aeroporto dell'est della Cirenaica. Secondo i militari americani sarebbero stati anche ridipinti, sarebbe stata cambiato il colore degli aerei per renderli più nascosti a quelle che sono le immagini satellitari. E sempre secondo l'intelligence americana, ci ponevamo infatti proprio il dubbio qui in trasmissione, sarebbero mercenari russi, ragionevolmente uomini della Wagner, pronti a pilotare questi stessi aerei. Un altro quadrante che continuiamo a tenere d'occhio è Hong Kong. Ha parlato Carrie Lam. Voi sapete che la governatrice dell'ex colonia britannica appare abbastanza saltuariamente. Ha parlato per dire che la nuova legge sulla sicurezza nazionale, quella che sostanzialmente è all'esame finale al Congresso Nazionale del Popolo a Pechino, vi abbiamo raccontato con dovizia di particolari le due sessioni, dicevo, questa nuova legge non modificherà diritti e libertà di Hong Kong. Invece andrà a colpire un ristretto numero di persone che la infrangono, proteggendo invece la maggioranza dei cittadini. Così ha parlato Carrie Lam. E a proposito di interviste rare e preziose, ha parlato anche alla TV di Stato cinese il comandante della guarnigione militare a Hong Kong. Però immaginate, questo tipo di interviste sono propaganda pura. Ha dichiarato che il presidio militare cinese, questa sorta di fortezza nel cuore di Hong Kong, ha tutelato e ha salvaguardato la sovranità nazionale cinese e la sicurezza a lungo termine della città. E staremo a vedere nei prossimi giorni, già vi abbiamo raccontato delle proteste di domenica, un'altra data chiave potrebbe essere già mercoledì, come vi raccontavamo, quindi domani. L'ultimo dossier da sfogliare velocemente, ma non perché la notizia non meriti importanza, ci porta in Ecuador. Migliaia di lavoratori e studenti sono scesi in piazza per protestare contro le misure di austerità che sono state annunciate dal governo. Almeno 2.000 persone hanno manifestato a Quito e la settimana scorsa il presidente Lenin Moreno aveva annunciato varie misure, tra cui chiusure di compagnie statali, tagli alle stipendi dei dipendenti pubblici, taglio di 4 miliardi, pensate, alla spesa pubblica, nonché anche all'università, da ciò la presenza degli studenti. Ricordiamo l'Ecuador particolarmente colpito dal coronavirus, 37.000 casi, più di 2.000 morti, secondo gli ultimi dati che sono diffusi, come ormai sapete, dalla Johns Hopkins University. Leggo i primi messaggi al 349-238-6666. Oggi si parla di relazioni pericolose. Voleremo tra Damasco, Mosca e Teheran. E partiamo da dove? Beh, dalla Siria e da Damasco. Prima pagina di Nessun Luogo Lontano, partiamo da Damasco, lì dove si intrecciano parecchi interessi. Lo raccontavamo all'inizio di questa trasmissione. Da un lato, diciamo, abbiamo la guerra vista col grand'angolo, la battaglia per Idlib, l'ultimo atto forse della ripresa quasi dell'integrità territoriale da parte del regime di Damasco. Poi allo stesso tempo, tra i palazzi del potere, si sta consumando una faida che avrebbe il sapore filmico se non andasse poi a impattare, come sempre, anche sui civili siriani. Buongiorno, ben ritrovato Nessun Luogo Lontano. Francesco Strazzari insegna relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Professore, buongiorno. Buongiorno. Allora, io direi partiamo dal grand'angolo, come amiamo dire noi. Quindi abbiamo un primo livello di relazioni pericolose, quelle tra Russia, Iran e Siria. Le chiamo relazioni pericolose perché se fosse confermato che Bashar al-Assad sta cercando di scucire dalle tasche del cugino centinaia di milioni di dollari, secondo la maggior parte degli analisti il re è nudo. Come dire, Bashar al-Assad ha bisogno di soldi, tantissimi soldi, per ricostruire una Siria funestata, distrutta da 9 anni di guerra civile e non ancora terminata. La prima domanda che le farei, professor Strazzari, è: visto che né Russia né Iran sono in grado di iniettare finanza, la liquidità che serve al paese per risollevarsi, non è che Assad ha scelto alleati potenti militarmente ma che poi economicamente non hanno grosso spessore, quindi forse alla fine hanno solo ipotecato il futuro della Siria e a lui non sono utili? Senz'altro c'è un aspetto che riguarda le casse assolutamente vuote di un regime diviso in fazioni che sta affrontando il tentativo di centralizzare il comando, un po' come hanno fatto altri regimi sempre più autoritari, pensiamo al corso riformista dell'Arabia Saudita e all'azione che ha fatto a corte mettendo in carcere parenti e vicini Bin Salman negli ultimi anni, con la differenza che la Siria non ha l'appoggio di nessuno dei grandi magnati del Golfo, ma l'appoggio di un Iran sempre più in difficoltà per le sanzioni di cui è fatto oggetto dagli Stati Uniti, di una Russia che vede, è dipendente in qualche misura dalla Siria per la propria proiezione internazionale. È arrivata oggi la notizia di aerei russi ridipinti in Siria che sono arrivati in Libia nella battaglia a fianco di Haftar, e tuttavia la Russia non ha intenzione di distanguarsi ulteriormente più di quanto non le consenta il budget militare per aiutare un Assad che è, come dire, coinvolto in queste risse di fazione interne ai propri clan. Sì. E dunque una scollatura completa con la comunità internazionale, che non ha intenzione di versare se non sul lato umanitario, dove già è stata abbondantemente taglieggiata in 9 anni di guerra. Sì. Allora, un po' di messaggi al 349-238-6666. Un ascoltatore che mi rimprovera dicendo: non ha detto che gli uomini della Wagner russa si stavano ritirando, da che parte stai? Gentile ascoltatore, dicevamo ieri che si stavano ritirando dal fronte di Tripoli e abbiamo anche sottolineato attraverso la mia voce e quella degli analisti che era molto ragionevolmente un ritiro tattico, in attesa di capire se quel fronte di Tripoli è davvero ormai reso impenetrabile dal supporto turco. Qualcun altro: in Libia gli errori madornari sono delle potenze occidentali e anche in Siria. 349-238-6666 per voi, ma fatemi tornare dal professor Francesco Strazzari, Relazioni Internazionali, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Professore, se Mosca e Teheran staccano la spina, che cosa accade al regime di Assad? Beh, si sta raschiando il barile in questo momento. La grande sfida è quella a far ritornare i soldi dall'estero. Fino a poco fa la Siria stava in piedi proprio per quanto riguarda il business, sul fatto che il mondo alawita, la famiglia Assad e Makhlouf tenevano in piedi tutto. Ora il fatto che la famiglia Assad stia ritirando, cercando di ottenere i soldi dai business rimanenti dalla famiglia Makhlouf, ci dice qualcosa della completa assenza di risorse, ma non solo risorse solo finanziarie disperse in banche all'estero o perse in Libano, il Libano che sta collassando dal punto di vista finanziario, ma sono anche proprio i soldi da distribuire in welfare. A Damasco ci sono viste scene non viste nemmeno durante la guerra, camion del pane che passavano per i quartieri venivano assaltati, i veterani che protestano per la prima volta contro Assad stesso, con dei post sanguinolenti rispetto al fatto di essere stati usati come carne da macello. Dunque davvero una crisi economica profonda che può minacciare il fatto che Assad possa tenere le mani sul regime, e il fatto che la cosa si stia avvelenando ulteriormente ci mostra che l'unica via d'uscita che vede è quella di creare un sistema blindato completamente in mano sua. Sì. Allora, un po' di messaggi: 349-238-6666, come vi dicevo, per Assad è arrivata in tutti i sensi la resa dei conti, così Sam, con una ironia che non possiamo che apprezzare nonostante la tragicità della situazione. Se Assad si troverà solo, chi ne prenderà il suo posto? Si vociferava, scriveva Daniele Raineri sul Foglio, che forse è arrivato il tempo di Asma, una delle figlie che sta peraltro entrando in conflitto, sarebbe entrata in conflitto secondo varie fonti di stampa proprio con Makhlouf. Professor Strazzari, stia con noi, perché abbiamo provato, intanto vi facciamo sentire la voce di Rami Makhlouf, che si è trovato di fronte a rispondere di varie accuse di fronte al presidente. Partiamo con la sua voce. لأشرح له ملابسات الأمر كيف عم تصير لأشرح بعض. Voglio rivolgermi a Vostra Eccellenza il Presidente, dice, per spiegare come si sono svolti i fatti, per dire che sono dispiaciuto e sto soffrendo, ha detto Makhlouf. Qualcuno potrebbe dirmi: proprio tu stai soffrendo, e noi cosa dovremmo dire? Ma io so solo questo, ha detto recentemente Maclouf. Non mi importa più nulla di me stesso. Queste compagnie, qua si riferisce al suo impero economico, servono voi, non me, presidente. Io sono solo un piccolo ingranaggio di questo meccanismo. Gestisco questi affari perché Dio mi ha voluto concedere questo onore. E questa è la verità. Questa è la voce di Maclouf, ma chi è veramente il cugino di Assad? Il suo profilo in 90 secondi. Marzo 2011. In tutta la Siria sono da poco scoppiate le manifestazioni contro il regime di Bashar al-Assad. Nella piazza di Daraa, nel sud del paese, si scandiscono slogan contro Rami Maclouf, il ricchissimo e potente cugino del dittatore siriano. Rami Maclouf ci sta derubando e Rami Maclouf vattene, urla la gente. Classe 1969, sposato e padre di due figli, il soprannome che i siriani hanno dato a Rami Maclouf è Mr. 5%, un riferimento alle commissioni che intascava per ogni importante transazione commerciale. Secondo le stime più accreditate, prima della guerra Maclouf controllava almeno il 60% dell'economia siriana. La sua cassaforte è la Siriatel, la principale compagnia telefonica del paese. Ma il suo impero spaziava dall'industria del petrolio a quella delle costruzioni, passando per banche, compagnie aeree private, turismo di lusso e assicurazioni. Nel 2008 un documento del Dipartimento di Stato americano lo descriveva come la corruzione fatta persona in Siria. Quello stesso anno Maclouf venne sottoposto a sanzioni dal governo di Washington. Pochi anni dopo, nel 2011, anche l'Unione Europea ha adottato lo stesso provvedimento. Durante la guerra civile, il supporto economico garantito da Rami Maclouf è stato fondamentale per garantire a Bashar al-Assad di mantenere il potere sulla Siria. Ma oggi il legame tra i due cugini sembra essersi spezzato. L'alleanza tra le due famiglie più potenti della Siria, gli Assad e i Maclouf, che si sono sostenute reciprocamente per 50 anni, potrebbe essere giunta al termine. Ed ecco fotografata l'importanza di Rami Maclouf. Siamo invece in compagnia del professor Francesco Strazzari. L'80% della popolazione, secondo gli ultimi report, professore, vive sotto la soglia della povertà. Le sanzioni non permettono investimenti, si sta rallentando la costruzione. Allo stesso tempo, e qua cito Lina Khatib della Chatham House, dice che sostanzialmente questo è il momento in cui Assad è il più vulnerabile. Molti ascoltatori, professor Stazzari, scrivono ma chi potrebbe prendere il suo posto? Non è che a farlo, a dargli la spallata finale, non so chi ci potrebbe pensare, ci ritroviamo in una situazione come quella libica, che si stappa un vaso che poi non si riesce più a ritappare. Professor Stazzari. Che se il regime non troverà una linea di successione interna che garantisca alcuni elementi di continuità prendendo le distanze dalle pratiche più deteriori, il paese venga precipitato paradossalmente a quella che sembra a tutti gli effetti una fase di stabilizzazione quantomeno militare, perché il nemico sul terreno esiste ancora, tanto a Idlib quanto a Daraa, dove è iniziata la rivolta nel 2011, si sta sparando in queste ore, ma è tuttavia il paradosso sarebbe quello di vedere la Siria a questo punto di stasi. Ricordiamo, durante le fasi più accese, quando sembrava che addirittura cadesse il palazzo di Assad della guerra nel 2015, in realtà dalla parte di Assad si festeggiava, c'erano la luce, l'elettricità, l'acqua. Oggi invece questi beni pubblici cominciano a scarseggiare. Il costo della guerra arriva, le casse sono dissanguate e le ipotesi, le ipoteche sulla transizione politica sono tutte aperte. Grazie mille, professor Francesco Strazzari, lo ricordo, Scuola Sant'Anna di Pisa, esperto di relazioni internazionali. Grazie mille, professore, buona giornata e buon lavoro. 349-238-6666, dalla voce del professor Strazzari alla vostra, per cercare di dare i contorni, di lineare quella che a tutti gli effetti è probabilmente, anche se silente, la crisi più grave per il regime siriano. Da un lato abbiamo due grandi potenze, tra pochissimo andremo sia a Teheran che a Mosca, che con il loro supporto hanno ipotecato anche il potere degli Assad. Dall'altra parte abbiamo, se volete, il quarto incomodo, perdonate il linguaggio forse un po' puerile, Israele. Israele che sta a guardare con grande interesse quello che accade in Siria, Israele che bombarda con grande precisione le postazioni iraniane in Siria, e quell'accenno di competizione che ci potrebbe essere tra Mosca e Teheran proprio sul teatro siriano, beh, potrebbe proprio favorire invece la stabilità o quantomeno la sicurezza militare di Israele stesso. Come al solito, quando si va in quella zona, quando si va nel vicino Oriente, il puzzle è davvero complesso e basta far saltare un pezzettino per sparigliare totalmente quello che è il quadrante che faticosamente abbiamo assemblato. Dipende da cosa vorrà fare Putin, così un ascoltatore che va esattamente a toccare il punto, quali sono le volontà del regime iraniano e anche di Vladimir Putin. Tra pochissimo ci andremo. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Nessun luogo è lontano. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano abbiamo iniziato un viaggio che parte dalla Siria, parte da quella Idlib che ancora non è caduta, da quelle sacche di resistenza che il regime di Damasco sta cercando di guadagnare. 9 anni di guerra civile, recentemente il Washington Post ricapitolava con dovizia di particolari come fosse il momento più sensibile per il regime siriano, un Bashar al-Assad che è molto fragile. Perché? Beh, perché sostanzialmente ha ipotecato la vittoria finale, l'integrità territoriale, a una serie di titoli di Stato, mettiamola così, da una parte emessi da Mosca, dall'altra parte emessi da Teheran. Supporto militare non solo, ma adesso la Russia e Teheran chiederanno qualcosa in cambio. E questo è un primo pezzo della storia. Il secondo pezzo riguarda invece una faida interna alla famiglia. Avete sentito il profilo, il ritratto di questo Rami Makhlouf, un magnate, un pezzo grosso della Siria che conta, di quel, come lo definiva il Washington Post, l'inner circle, il circolo più ristretto dei siriani che contano. Ecco, dopo essere andati d'amore d'accordo per tanti tanti anni, adesso Bashar al-Assad vuole il patrimonio di Makhlouf perché ha bisogno di soldi, di liquidità. La Siria va ricostruita, se non lo farà in tempi brevi è facile che la sua popolarità e il consenso popolare possano vacillare. 349-238-6666 per voi. Andiamo immediatamente a Mosca e lo facciamo con la voce di Alexei Klebnikov, che è un analista esperto delle relazioni tra Russia e Medio Oriente per il Russian Council. Quanto costa a Putin rimanere in Siria e mantenere Assad al potere? Sentite. I don't think this question is a proper way to address this. Non credo che sia appropriato analizzare la presenza russa in Siria dal punto di vista economico. In termini di risorse o capitali, Putin non spende tanto nella campagna militare in Siria. Mosca riesce a mantenere un buon bilancio perché non bisogna dimenticare che la Russia, in cambio dell'aiuto a Damasco, ha ricevuto 2 basi militari in territorio siriano. Una navale a Tartus e una base aerea in una località nei pressi di Latakia. La Russia è in Siria per restarci. È necessario anche sottolineare che l'impegno di Mosca in Siria è inferiore a quello dell'Iran, per esempio. Teheran ha investito molto più di Mosca in termini di prestiti, petrolio e asset finanziari in Siria. Financial assistance to Syria. L'analisi, il commento di Alexei Klebnikov, analista esperto di Medio Oriente, Russian Council, ha fatto una menzione molto molto importante, quella che è la base navale di Tartus. Siamo sulla costa siriana e per la Russia è lo sbocco in un mare caldo. Di questo tema parliamo molto spesso, le grandi egemonie mondiali hanno necessariamente bisogno di avere uno sbocco per le flotte, per una proiezione marittima anche sui mari caldi. Voi direte, voi ma come, non bastano i mari del nord, quelli antistanti la Siberia? Ma no, perché le grandi partite si giocano in Medio Oriente e nelle zone più calde, guarda caso, dove sono sorte le civiltà e dove tuttora palpita sicuramente di più la vita rispetto a remote e desolate lande del profondo nord. Da ciò l'importanza appunto di tenere un piedino, dovrei meglio dire un anfibio, in Siria. C'è un'amicizia personale tra Putin e Assad? C'è un qualche legame che giustificherebbe questo lungo impegno, oppure solo una cinica, spietata relazione politica? Sentite ancora Alexei Klebnikov. I don't think it's proper to talk about the personal linkage between Putin and Assad. Non penso sia corretto parlare di legami personali tra Putin e Assad. L'intervento russo in Siria è dettato dai propri interessi in quel paese e Assad è semplicemente la persona al potere che incarna quel regime. Per la Russia è importante mantenere al potere le istituzioni statali esistenti. Quindi si tratta degli interessi della Russia in Siria, non dell'interesse nei confronti di Assad o della sua famiglia. Not the Assad family or Assad himself as a person. E ancora una volta, nelle parole di Alexei Klebnikov, analista per il Russian Council, esperto di Medio Oriente, aggiungiamo dei tasselli a questa complessa storia che vi raccontiamo oggi. A nessun luogo lontano, la Siria come terreno terzo per grandi potenze dopo il ritiro dell'Occidente, in primis degli Stati Uniti, comunque mai e poi in pochissime occasioni qualcuno ha voluto sporcarsi gli scarponi in quella che era veramente una melma inestricabile, sto parlando del conflitto siriano. 349-238-6666 per i vostri commenti e le vostre domande. Ermanno scrive: quella parte del mondo sarà sempre una zona calda fino a quando non si creerà uno stato indipendente curdo, Iran, Siria, Iraq e Turchia permettendo. Io invece, permettendomi, Ermanno, ribalterei il ragionamento e direi che la questione curda è sempre stata schiacciata invece dalle volontà egemoniche proprio di quelle potenze, come se l'anima curda avesse sempre cercato di uscire, ma non è che la stabilizzazione, a mio modestissimo parere, una volta fatto uno stato indipendente curdo la si ha automaticamente, anzi direi che è proprio il contrario. Però certamente la questione curda è un altro tassello importantissimo, ma quest'oggi stiamo ragionando sui due livelli degli Assad al potere: da un lato l'aiuto delle potenze straniere e dall'altro la faida interna, non meno rilevante quantomeno dal punto di vista economico. Pensate che proprio recentemente Assad ha provato a congelare 160 milioni di dollari al cugino con il quale prima andava d'amore d'accordo e adesso a lui le cose non vanno molto molto bene. 349-238-6666 per voi. Ancora la voce di Alexei Klebnikov, Russian Council. Ultimamente, negli ultimi giorni, c'è stata una, non dico una campagna, però una serie di giornali russi che si sono scagliati contro il regime di Assad. Ora, quando la stampa russa si muove, e non stiamo parlando solamente della Novaya Gazeta, la stampa che a fatica cerca di essere indipendente, evidentemente ci sono anche forse delle direttive dall'alto. Cosa c'è sotto? Perché i russi, i giornali russi hanno iniziato a criticare aspramente il regime di Assad? Non è che Putin magari sta pensando a una qualche forma di sostituzione? Sentite Klebnikov. C'è stata una campagna sui media riguardo alle critiche provenienti dalla Russia a proposito della Siria, che non ha nulla a che vedere con le posizioni ufficiali. In primo luogo, non dobbiamo dimenticare che la Russia non è mai stata molto contenta di Assad. Ed è perfettamente chiaro che Assad sia un partner con cui è molto difficile negoziare. E più in generale, è molto difficile fare affari con il regime. In secondo luogo, la politica ufficiale non è cambiata. Recentemente la Russia ha inviato aiuti umanitari e assistenza alla Siria, ventilatori, test per il coronavirus, dispositivi di protezione per i medici. Inoltre, nelle ultime settimane Mosca ha inviato 100.000 tonnellate di grano in Siria, cibo e aiuti umanitari. Non c'è motivo di credere che la Russia stia cambiando il proprio approccio nei confronti di Assad. Di nuovo, non dobbiamo dimenticare che la Russia non è sempre stata contenta del regime di Assad. E in questo non c'è nulla di nuovo. Don't forget that Russia was not always happy with the regime. So there is nothing new about that. In questa pagina di Nessun Luogo Lontano abbiamo viaggiato da Damasco a Mosca. Lo abbiamo fatto prima con la voce del professor Francesco Starzari, Scuola Sant'Anna di Pisa, poi con la voce di Alexei Klebnikov del Russian Council, che ci aiuta a mettere insieme un po' di tasselli su quella che è la relazione, l'abbiamo battezzata pericolosa, forse avremmo dovuto dire complessa, tra Mosca e Damasco. Torno invece a Damasco con un messaggio che arriva da un ascoltatore, Roberto da Padova, al 349-238-6666. Roberto racconta che ha avuto la fortuna di visitare la Siria prima della guerra, bellissima città piena di vita. Le rivolte sono state fomentate, scrive l'ascoltatore, dall'Occidente per rovesciare Assad. Lui c'è ancora, ma la Siria è diventata un inferno infinito. Così Roberto da Padova, che abbraccia la teoria, la tesi di queste primavere arabe etero-dirette. Sicuramente ci sono dei pezzi di verità, però così andiamo a cancellare completamente quelle che erano le aspirazioni di tante anime civili, a Idlib per esempio, ma anche a Homs, ad Aleppo. E non credo che, come dire, visioni così manichee, bianco e nero, è stato l'Occidente, è stata la CIA, aiutino a capire la complessità del teatro siriano. Sicuramente quando ci sono rivolte e ribellioni di questo tipo, le infiltrazioni ci sono, perché è conveniente per le grandi potenze andare a soffiare sul fuoco. Qual è ora la posizione dell'Europa, chiede un ascoltatore? Beh, è buono sapersi, cioè sarebbe bello saperlo. Purtroppo la politica estera europea non è francamente presente in quel settore. 349-238-6666. Torniamo alla voce di Klebnikov, che studia proprio le relazioni tra Mosca e il Medio Oriente, in particolare tra Mosca e Damasco. Torniamo a questa strana figura, quella di Rami Makhlouf, un tempo grande amico del presidente Bashar al-Assad. Alcuni parenti di Makhlouf, attenzione, vivono in Russia, il padre e il fratello. Forse che ci sia un tentativo da parte dei familiari di un maggiore accreditamento di Makhlouf, il cugino caduto in disgrazia proprio presso Putin. Sentite. Well, I don't think Makhlouf's relatives who live in Russia work on his behalf trying to. Non credo che i parenti di Rami Makhlouf che vivono in Russia stiano cercando di spacciarlo al Cremlino come un'alternativa ad Assad. Credo che quello che sta accadendo tra Bashar al-Assad e Rami Makhlouf è un semplice tentativo da parte di Assad di consolidare il suo potere, in primo luogo in termini economici. Bashar ha infatti una disperata esigenza di risorse finanziarie e Makhlouf ha fatto la sua fortuna proprio grazie ad Assad. Il patrimonio e l'influenza di Makhlouf hanno continuato a crescere anche durante la guerra civile. Ora Assad sta semplicemente chiedendo a Makhlouf di rendere il favore e aiutare con flussi di capitali. Insomma, la restaurazione dopo anni di guerra civile costa parecchio, costa centinaia di milioni di euro. E con un Occidente che storce il naso di fronte a Assad, ma in realtà non ha mai avuto il coraggio pubblicamente e palesemente di prendere posizione, troppo pericolosa quella melma siriana, ha lasciato un vuoto riempito da chi? Beh, da Mosca e da Teheran. Tra pochissimo infatti andremo proprio a Teheran. Allora, a questo punto, prima di volare da Mosca a Teheran, chiediamo un'ultima cosa a Klebnikov del Russian Council. Proprio Iran e Russia hanno delle rivalità in Siria, e se sì, quali? I won't call it rivalry or what's happening between Russia and Iran. I would rather call it a competition. Non definirei rivalità quello che sta succedendo tra Russia e Iran. La definirei piuttosto una competizione economica tra due soggetti che si basa su quello che possono ottenere dalla Siria, ma anche in termini politici. Penso che la Russia sia più incline a negoziare con l'Occidente per quanto riguarda le riforme politiche ed economiche in Siria, mentre l'Iran è più conservatore su questo punto. Ed è su questo che Mosca e Teheran non trovano un accordo. Quindi direi che sono questi due i principali punti di disaccordo tra i due paesi. Two are the main points of disagreements between the two. I punti di disaccordo tra i due paesi, così Alexei Klebnikov, analista esperto di Medio Oriente, Russian Council. Invece un punto di accordo io e Carmelo ce l'abbiamo. Andiamo a sentire il traffico. Nessun luogo è lontano. Yeah. Ancora buona giornata ascoltatrici e ascoltatori. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano stiamo macinando migliaia e migliaia di chilometri. Beh, prima in realtà ci siamo aggirati tra le stanze del potere di Damasco, raccontandovi quel braccio di ferro tutto economico e finanziario in seno alla famiglia. Il cugino di Bashar al-Assad, Makhlouf, che sostanzialmente non vuole scongelare i suoi asset finanziari che vengono reclamati a gran voce anche con strumenti legali e giudiziari da parte di Bashar al-Assad. Perché? Perché Assad deve ricostruire un paese una volta che, se ce la farà, la integrità territoriale sarà riconquistata, ma non ha i soldi per farlo. Perché? Perché l'Occidente sostanzialmente non vuole mettere le mani nel pantano siriano e ha lasciato un vuoto riempito in parte da Mosca, in parte da Teheran. E l'ultimo tratto di questo viaggio ci porta proprio a Teheran e lo facciamo con la voce di Raffaele Mauriello, che insegna alla Meta Bataille University di Teheran, nonché anche alla Sapienza. Divide i suoi studi e le sue passioni tra la letteratura persiana e la geopolitica. Professor Mauriello, buongiorno, ben ritrovato. Grazie a lei, ai radioascoltatori. Allora, le vicende degli Assad, in particolare questa diatriba, questa faida familiare con il cugino Rami Makhlouf, ha trovato una qualche eco sui media iraniani? Se ne parla oppure è una cosa distante? È una cosa distante in realtà, nel senso che l'Iran non entra in questi dettagli della politica o delle questioni interne allo Stato siriano. L'Iran è da una lunga presenza, in realtà la presenza dell'Iran non risale alla crisi della primavera araba, quindi al 2011, ma è precedente. Addirittura in un certo senso il rapporto fra l'Iran e la famiglia al-Assad precede la creazione della Repubblica Islamica dell'Iran, nel senso che molti di coloro che fecero la rivoluzione sono formati come guerriglieri e poi hanno fatto appunto lo scontro con lo Shah in Libano, nella Bekaa, attraverso la Siria. E quindi è una relazione che esiste tra molte persone che oggi sono al potere in Iran e il regime di al-Assad, è una relazione profonda. Quindi in realtà in questi giorni in Iran si parla soprattutto della forte impressione che ha fatto la capacità dell'Iran di contratti con gli Stati Uniti inviando le petroliere in Venezuela, che in effetti dimostra anche la capacità dell'Iran di proiettarsi geopoliticamente ben oltre il vicino oriente. Sì, ne davamo proprio notizia ieri dell'arrivo della seconda, se non erro, petroliera, con l'attraversamento peraltro del Mar dei Caraibi, dove sono anche presenti le navi della Marina Militare statunitense, e sottolineavamo come in realtà il mare per fortuna è rimasto molto freddo, molto calmo, ecco, per usare una metafora, senza particolari tensioni. La voce che sentite è quella di Raffaele Mauriello da Teheran, insegna alla Meta Bataille University proprio di Teheran. Secondo varie fonti, professor Mauriello, molti miliziani iraniani si sarebbero ritirati dallo scacchiere siriano. Se fosse confermato, perché proprio in questo momento? Ma in realtà io ho seguito la notizia, è una notizia molto facile da individuare, nel senso che è stata diffusa da fonti israeliane, sempre anonime, in realtà però messa molto in rilievo dai quotidiani iraniani, volevo dire israeliani, ma poco rimbalzato su quelli iraniani, nel senso che in questo momento effettivamente è un momento in cui lo scontro, c'è notizia di bombardamenti israeliani in Siria, ma appunto sempre fonti israeliane, in realtà non si è parlato molto di queste, nessuna conferma a livello internazionale. Diciamo che sicuramente l'Iran si sta riposizionando, di nuovo il gioco dell'Iran in Siria è un gioco che va ben oltre gli Assad, l'Iran ha una presenza importante di intelligence, quindi non ha le truppe, quello che sta spostando l'Iran, diciamo, è l'intelligence. L'Iran utilizza, perché l'Iran è in Siria? L'Iran è in Siria per due motivi molto semplici. Sì. Uno è il proprio interesse nazionale, cioè la proiezione della difesa del territorio ben oltre i confini. Su questo va ricordato che l'Iran è capace di inviare l'intelligence ai confini con Israele, che è un atto di grande capacità geopolitica, e l'altro chiaramente è la capacità di tenere libera la questione di Hezbollah, cioè riferimenti ad un alleato fondamentale e molto serio, anche più importante volendo, del regime di siriano. Ma va anche detto che la Siria è stato l'unico paese durante gli 8 anni di guerra fra Iran e Iraq, di cui molti oggi non dimenticati, l'unico paese arabo, uno dei pochi, a rimanere diplomaticamente vicino all'Iran, quindi l'Iran aveva un debito da questo punto. Certo, l'Iran ha fatto anche di importanti finanziamenti. Sì. Oggi quando si parla della Siria si parla molto della Russia, ma in realtà la Russia è intervenuta in Siria solo nel 2015, sì, su richiesta dell'Iran, e dal 2011-2015 è stato l'Iran da solo a sostenere la Siria contro chi? La Turchia, il Qatar, l'Arabia Saudita, gli Stati Uniti. Ha dimostrato una grande capacità. Oggi la guerra civile in un certo senso è finita, perlomeno le grandi battaglie, e quindi l'intelligence iraniana si riposiziona in un momento molto complesso anche per il paese, devo dire. nella voce, con la voce e con il commento di Raffaele Mauriello, l'ultima tappa di questo viaggio di Nessun Luogo Lontano, partito da Damasco, dalle stanze del potere, abbiamo messo un po' il grandangolo sulla situazione siriana, poi a Mosca, infine appunto a Teheran. Tra i mille problemi di Assad in questo momento, oltre alla crisi economica, la roccaforte di Idlib che non scende, l'ingresso della Turchia con quella strana fascia di sicurezza, sicurezza per la Turchia evidentemente, non certo per la Siria, creata qualche mese fa, arrivano notizie molto inquietanti su rigurgiti dello Stato Islamico, che anche complice una mala gestione delle prigioni curde, per tutti i motivi che sapete, i curdi sono invisi un po' a tutti sostanzialmente lì, ed erano loro che tenevano prigionieri i miliziani dell'ISIS, c'è questo pericolo all'orizzonte. Ecco, Teheran come tratta il dossier Stato Islamico, o meglio quel che resta dello Stato Islamico, in un territorio comunque vicino, Raffaele Mauriello? No, è fondamentale, oggi molti di nuovo se lo dimenticano, ma quello che ha sconfitto lo Stato Islamico in realtà è stato sostanzialmente, in particolare, l'Iran con Soleimani, un personaggio fondamentale. Dopo la sconfitta dello Stato Islamico è stato ucciso anche Soleimani, quando ormai non serviva più a questi grandi giochi, diciamo. Però l'Iran è fondamentale controllare le risorse dello Stato Islamico, e probabilmente uno dei riposizionamenti dell'Iran, dell'intelligence, è finalizzata proprio al controllo, perché effettivamente ci sono dei rigurgiti anche seri dello Stato Islamico, e l'Iran è intenzionato a controllare questi rigurgiti, perché sono finanziati da chi? Di nuovo, lo sappiamo benissimo, dagli Emirati, dall'Arabia Saudita, in parte la Turchia, che oggi è una relazione un po' più complessa in questo senso, perché c'è anche la questione curda, sì, che giustamente menzionava. Quindi per l'Iran è fondamentale controllare, perché? Perché lo Stato Islamico incide non solo sulla Siria ma anche sull'Iraq, e l'Iraq è di nuovo una pedina fondamentale nel gioco della geopolitica regionale in cui l'Iran è presente, e quindi si sta riorganizzando. Poi va detto anche un'altra cosa, che noi in Iran fra un anno ci sono le elezioni presidenziali, quindi c'è un momento anche di passaggio. Proprio oggi si è dato, in un certo senso, il nuovo parlamento conservatore iraniano. Quindi siamo, in un certo senso, anche un cambio politico, e quindi entreranno nuovi attori politici e si considererà tutta una serie di posizioni geopolitiche all'interno della regione. Anche se, lo ripeto, la questione dell'alleanza tra Iran e Siria è, diciamo, a lungo termine. È qualcosa di granitico, fuori di discussione. Lo sarebbe, professor Mauriello, ed è l'ultima domanda, poi la lascio. Rouhani in questo momento non gode di una grande popolarità politica, è molto facile che si avrà una figura diversa da qui a un anno. Come potrebbe cambiare la politica estera iraniana, a parte il teatro siriano? Dalle sue parole l'abbiamo capito, è un pilastro fondamentale per proiettarsi nel vicino Oriente e tenere d'occhio alcuni attori, su tutti evidentemente Israele. Ecco, quali mosse ci potrebbero prevedere da qui a un anno con un cambio di presidenza? È molto importante, bisogna aspettare cosa succederà, nel senso che io normalmente divido questo tipo di politica estera dell'Iran in due termini. Parlo di gli esperti delle relazioni internazionali e gli esperti di geopolitica. L'Iran fa sempre tutti e due i giochi, però Rouhani è proprio espressione degli esperti di relazioni internazionali, e Zarif ne è stato un grande esempio. Ahmadinejad, se vuole, la politica di Ahmadinejad è quella dei responsabili, degli esperti di geopolitica. Tra un anno è possibile che tornino gli esperti di geopolitica, ciò significa una proiezione più complessa, meno istituzionale, volendo, meno multilaterale e più basata su operazioni di vario tipo attraverso le forze di Sepoy Pasdaran. Quindi anche cambi importanti, bisognerà aspettare. Il gioco delle elezioni in Iran è un gioco molto serio. Certo, il Parlamento conservatore preannuncia scenari complessi. Grazie mille al professor Raffaele Mauriello, lo ricordo, insegna letteratura persiana e lingue straniere alla Alameda Bataille University, e interviene anche al Master di Geopolitica e Sicurezza Globale alla Sapienza. Grazie mille professore, buona giornata e buon lavoro. Grazie a lei, buon lavoro. Dalla voce del professor Mauriello, che risuonava da Teheran, alla vostra al 349-238-6666. Perché quando a interferire è l'America, scrive un ascoltatore o ascoltatrice, mi perdonerà, si grida allo scandalo. Quando fa la Russia, è un ascoltatore, si firma Diego. Quando lo fa la Russia o la Cina, lo si fa passare per semplici e innocue posizioni politiche. Ma in tutta onestà, Diego, non so se sta parlando di noi in particolare o del racconto dei media in generale. Non c'è dubbio che intanto stiamo mettendo insieme America, Russia e Cina, che hanno dei modi di proiettarsi totalmente diversi. La Cina lo fa col soft power, la Cina lo fa pianificando da qui a 50 anni le più grandi opere infrastrutturali mondiali. La Russia non ha certamente quel peso economico, anzi decisamente no, c'ha un PIL che fa sorridere anche in confronto per esempio della Germania, ma ha una proiezione militare molto molto forte, soprattutto informale, lo si vede alla presenza dei mercenari, quelli della Wagner in Libia per esempio. Gli Stati Uniti sono stati dannatamente muscolari, sono stati presenti, sono stati chiassosi, perdonatemi il termine, anche con quegli slogan dell'esportare la democrazia, salvo poi magari in alcuni teatri non avere le prove delle famose armi di distruzione di massa. Quindi sono proprio modi di proiettarsi totalmente differenti, con esiti diversi. L'America l'aveva a livello globale, la Russia lo fa in maniera molto attenta, soprattutto regionalmente, e la Cina anche quella in maniera totalmente globale. Su un punto però siamo d'accordo, ancora una volta, io e Carmelo, ed è una parola. Quale io obbedisco sempre prontamente, Carmelo, devi compiacerti di questa mia. Scherzi a parte, sono i titoli di coda, i ringraziamenti a voi, a tutta la squadra, e l'appuntamento è per domani, ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.